Mr. Kilowatt, alla ricerca dell'energia perduta. Buonasera da Maurizio Melis. Abbiamo parlato un paio di settimane fa del grande eolico, delle grandi pale, quindi quelle con un diametro di 100 metri montate su piloni alti altrettanto, pensate per produrre anche diversi megawatt di potenza. Si tratta di oggetti molto costosi, non semplici da gestire, e non a caso i grandi campi eolici sono appannaggio esclusivo delle grandi imprese del settore energetico. Stasera allora scendiamo di taglia di costo andando ad analizzare una generazione di macchine più piccole. Parleremo infatti del mini eolico con Francesco Martelli, direttore del Centro di Ricerche sulle Energie Rinnovabili dell'Università di Firenze. Buonasera Martelli e benvenuto a Mr. Kilowatt. Buonasera. Allora, di cosa si tratta? Di cosa stiamo parlando? Quanto sono grandi? Quanto producono queste macchine? Dunque, queste macchine, diciamo, il mini eolico si colloca normalmente nell'intervallo di produzione di potenza fra i 10 kW e 200 kW, 20 kW, 200 kW, con dimensioni dei pali sostanzialmente che variano dai 5 metri minimo fino a una sessantina di metri per le potenze più elevate. La soluzione più diffusa ormai da questo punto di vista è la soluzione ad asse orizzontale, con diversi tipi di strumentazione atta a orientare l'asse della macchina nella direzione principale del vento. Ecco, insomma, una vera e propria versione in miniatura, se così sì. Si può dire, delle grandi pale eoliche, quelle che si vedono anche in Italia ultimamente, soprattutto nel sud Italia. Ecco, senta, questi impianti mini eolici che abbiamo detto sono di dimensioni anche ragionevoli, dove possono essere installati? A che categorie di investitori possono interessare? Ma diciamo che quelli più piccoli di questo tipo possono essere adatti anche a piccole utenze isolate, quelle che hanno il problema di non riuscire ad essere allacciati alla rete, e quindi piccole utenze, tipo piccole farms, piccole fattorie o piccole imprese PMI e così. Mentre salendo di dimensioni e quindi anche di potenza elettrica, ormai generalmente sono allacciate alla rete elettrica e possono così usufruire anche di particolari agevolazioni dal punto di vista dell'incentivazione che lo Stato dà all'utilizzo di fonti rinnovabili. C'è un meccanismo che è quello del conto energia fondamentalmente? Sì, è un meccanismo che è quello del conto energia, quindi in questo senso ci sono due opportunità. Effettivamente, una è la tariffa fissa onnicomprensiva, per cui l'energia elettrica viene pagata a 0,30 centesimi per ogni kilowattora prodotto e immesso in rete per la durata dei primi 15 anni. L'altra alternativa invece è quella di utilizzare il meccanismo dei certificati verdi e di avere una cessione sul mercato libero. Ecco, considerando tutto questo, quali sono i costi e i tempi di payback di un investimento nel mini eolico? Che mi sembra, insomma, tutto sommato sia anche un discreto affare ormai per molti investitori potenzialmente. Sì, che i costi, naturalmente il costo a kilowatt installato cresce al diminuire della taglia, quindi mentre per un grande eolico si va dagli 800 ai 1000 euro per kilowatt installato, quando si scende verso la soglia inferiore del mini eolico si arriva anche a 4-5 mila euro a kilowatt installato. Però tenendo conto del fatto che il combustibile non costa, che ci sono delle incentivazioni, i tempi di rientro variano da 7 a 9 anni, possiamo dire, e questo è un po' in funzione delle ore di funzionamento annuo dell'impianto. Ecco, qui sta venendo fuori naturalmente l'altro tema molto importante, cioè che mentre il tasso di insolazione per esempio è abbastanza facile da misurare, presenza di vento per quanto tempo e così via è una roba già un po' più difficile da stabilire. È molto importante quando si fanno investimenti anche di mini eolico invece chiarirsi le idee da questo punto di vista. Certo. Ecco, come si fa? Ci vuole una campagna anemometrica, vero? Sì, c'è da fare una campagna anemometrica. Il primo punto è quello di fare una stima preliminare attraverso gli atlanti gli eolici che esistono, in particolare c'è quello elaborato dall'ERSE, che è sull'http://atlanteeolico.erse-web.it, che dà una valutazione della ventosità a 25 metri di quota, che direi la un buon punto di partenza probabilmente per cominciare a ragionare. Potenza. Però una volta che da questo si è valutato un certo potenziale eolico, quindi una stima molto preliminare, allora poi è necessario fare una campagna almeno di un anno, con un anemometro che misuri e registri i dati di vento in modo da avere velocità, direzione e livelli di turbolenza nell'area in cui si intende installare l'impianto. Quindi che l'investimento in mini eolico è molto sensibile a due parametri. Proviamo a riassumere così, se lei è d'accordo. Certo. La potenza, appunto, per cui va bene scendere, ma forse è meglio non scendere più tanto verso la soglia minima, perché i costi cominciano a diventare troppo elevati, e l'altra è la presenza di vento, la scelta del sito, scelta e questo era abbastanza nelle cose. Una campagna anemometrica può variare dai 2.000 ai 5.000 euro o anche oltre, a seconda della durata. È chiaro che anche qui, se uno spende di più perché ha una qualità del servizio migliore, la incertezza nella riduce l'incertezza. Va bene, grazie mille Martelli. La ringrazio a voi. Questo è tutto, domani parleremo di celle a combustibile, ma di un tipo particolare, un tipo di cella a combustibile che non usa idrogeno, bensì metano, gas naturale, biogas. A domani.